Effetto Mondo. We're gonna win the state of Michigan so easily. We want to do it just like last time, but let's give me a little bit more margin than that if you don't mind. E allora, insomma, la grande narrazione delle elezioni americane è entrata nell'ultimo miglio. Sì, ricordiamo che me lo sono segnato per non fare pasticci, qui da noi 13.45, quindi a New York sono 6 ore in meno, perciò sono le 7.45, sì. I seggi sulla East Coast quindi sono già aperti, mentre essendo gli Stati Uniti un paese gigantesco, dall'altra parte del paese sulla West Coast, quindi per esempio in California, sono le 4.45 di notte, quindi non stanno ancora votando. Questa la voce che abbiamo sentito era quella di Donald Trump, uno dei suoi ultimissimi comizi. Ha scelto il Michigan, uno dei tre stati che è riuscito a strappare ai democratici nel 2016, e infatti qui dice: nel 2016 abbiamo ottenuto una grande vittoria, questa volta magari datemi anche qualche voto in più. La cosa interessante è che scrive per esempio il New York Times è che nel 2016 la percentuale di elettori che si dichiarava incerta fino all'ultimo giorno era del 13%, quest'anno invece siamo al 6%. Se aggiungiamo che hanno votato praticamente 100 milioni di persone, cioè il doppio nel sistema del early voting, che in alcuni stati i seggi sono aperti già da 3 settimane, in altri da 1 settimana. Poi ci sono i voti postali, che sono il doppio a questo punto di quelli del 2016. Siamo di fronte a uno scenario veramente molto incerto, tanto che nessun giornale si sbilancia. Cioè, incerto in che senso? Perché tu stai dicendo c'è un alto early voting, quindi hanno votato prima più che in passato. Si abbassa la percentuale degli indecisi, vuol dire che c'è polarizzazione. C'è molta polarizzazione e è tutto da capire se le persone che hanno scelto altre modalità di voto, appunto il doppio rispetto al 2016, è perché votano per la prima volta oppure non vogliono rischiare la situazione post causa pandemia più rischiosa di recarsi al voto oggi con le lunghe file che si prevedono. Tutti però, sentivo da Fox News a CNN, si attendono che questo sia un record di affluenza. Ricordiamo che negli Stati Uniti è difficile arrivare al 60% di affluenza, quindi se questa volta la si supera, comunque tutti la definiscono una grande prova di democrazia partecipativa. Tra l'altro vi ricordo, perché è interessante, ne parlano tutti i quotidiani, specie quelli dei singoli stati o delle singole città, che si vota per il presidente, ma si vota anche per rinnovare tutta la Camera dei rappresentanti, quindi la Camera bassa, 435 deputati. In questo momento la Camera è controllata dal Partito Democratico, 233 seggi contro 197, e qui non si prevedono scossoni. Si vota per 35 senatori su 100, quindi un terzo dei senatori, e in questo caso il Senato è controllato, ma con un margine abbastanza piccolo, dai repubblicani, 53 a 47. In molti prevedono, questo sì, perché qui è più facile prevedere sulla base del voto popolare e l'assegnazione di un seggio, che il Senato potrebbe passare ai democratici. In questo caso, naturalmente, per Donald Trump, almeno i primi 2 anni, prima delle midterm elections, dove si rinnova di nuovo, sarebbero difficili, calvario. No, sarebbe molto interessante, perché se la Camera resta democratica, come tutti credono, il Senato diventa democratico e lui naturalmente è presidente. Insomma, attuare alcune delle riforme strutturali che lui ha annunciato sarebbe sicuramente più agevole. Pensa in Italia una cosa del genere, no? Un governo senza maggioranza. Un'altra cosa interessante che sottolineano molti è che il nuovo congresso si insedierà, e ripeto, sulla facilità del processo di assegnazione dei seggi per quanto riguarda Senato e Camera dei rappresentanti ci sono meno dubbi, e il nuovo congresso si insedierà il 3 di gennaio. Il nuovo presidente invece si insedia il 20 di gennaio, ma qui entra in gioco la questione dello spoglio, perché i voti per posta tradizionalmente sono validi se hanno il timbro postale fino al 3 novembre, però potrebbe voler dire che arrivano naturalmente negli uffici federali più tardi. Trump sta cercando in tutti i modi, soprattutto in Texas, che è uno degli stati più grandi, e tra l'altro è lo stato dove c'è stata la percentuale più alta di early voting, sta cercando di convincere tutti i vari uffici elettorali, eventualmente anche con ragioni legali, con cause legali e sentenze delle locali corte supreme, a fare i conteggi solo oggi, cosa che è impossibile perché in realtà le regole di tutti gli stati prevedono che i conteggi durino finché ci sono voti da contare. A che ora in Italia si potrà cominciare a seguire questo? Ma io alle 10 mi sintonizzo sulla CNN, le 10 nostre, che sono le 4 del pomeriggio loro, e cominceranno a fare un po' di exit poll, eccetera. Ricordiamo che nelle ultime elezioni, quelle del 2016, gli exit poll presero una cantonata tremenda, sì, dando per vincente Hillary. Quindi è la questione dei grandi elettori, magari domani la spieghiamo un po' meglio, perché troppi numeri tutti insieme magari rischiamo solo di confondere, però insomma sappiamo che non è detto che il voto popolare, anche ci fosse un'affluenza molto più alta di quella, sì, del 2016, corrisponda poi alla vittoria del presidente. Una cosa importante, sì, di questo parla il Wall Street Journal, è che Donald Trump ha continuato a dire che lui proclamerà comunque, sì, lui dice mi proclamerò vincitore, che comunque lui dice entro la giornata di oggi verrà proclamato, tra l'altro una curiosità, viene detto victor, non winner, proprio guardando diciamo agli antichi romani, il vincitore. In realtà questo non è possibile perché non è il presidente che annuncia chi ha vinto le elezioni. Perciò chi è che lo annuncia invece? Lo annuncia la commissione elettorale. La commissione. E quindi questo, io credo che nessuno potrà avere un nome ufficiale entro la giornata di oggi. Dovremo aspettare alcuni giorni. Certo è, mi viene a fare una considerazione da ex studente di sociologia, che se anche stavolta i sondaggi non ci beccano, allora veramente c'è da domandarsi a cosa servono questi sondaggi, cioè non, veramente sarebbe da riscrivere completamente tutta la pagina della sondaggistica, di cui l'America tra l'altro è pioniera, perché da Gallup in avanti sappiamo che c'è una tradizione incredibile. Cos'altro hai, Giulia? Sì, tra l'altro il New York Times ha fatto proprio un po' il conto, dice se il New York Times è abbastanza ottimista, dice se i sondaggi sbagliano esattamente come sbagliarono nel 2016, Biden vince comunque anche se con un margine minore. Insomma, vedremo. Io credo, il New York Times è appunto palesemente schierato ormai da tanto tempo, chi non è così palesemente schierato è anche molto meno certo di una vittoria di Biden, che ricordiamo in questo momento i sondaggi del voto popolare danno comunque in vantaggio con uno scarto di 6, 7, 8 punti, però appunto sondaggi, abbiamo appena finito di dirlo. Allora, abbiamo ancora un minutino, se c'è tempo per così dare un'occhiata anche agli altri giornali. Naturalmente, le elezioni americane sono su tutti i quotidiani europei, sui quotidiani austriaci e quelli tedeschi solo un paio hanno la notizia dell'attentato in prima pagina, per il semplice motivo che chiudono molto presto questi quotidiani. I siti ovviamente hanno tutte le notizie, ho guardato l'home page di tutti i quotidiani austriaci, da Der Standard a tanti altri, e stanno aggiornando continuamente. Intanto una prima notizia sicura è che ci saranno 3 giorni di lutto in Austria. E naturalmente i commenti sono: chi credeva che l'Austria fosse in qualche modo al sicuro da questo terrorismo islamico, da questi lupi solitari, ecco, deve ricredersi, non c'è luogo sicuro. Purtroppo. Nel Regno Unito naturalmente si parla ancora molto di Covid, e poi c'è questa notizia di cronaca che è la ennesima condanna di Johnny Depp nel processo che ha intentato la moglie contro di lui, giusto, per violenze, e si prevede, quindi così prevedono i giornali, che sarà più difficile che lo ingaggino in grandi film, perché un colpo alla sua immagine è tremendo questo. Grazie Giulia, è tutto per oggi, con Pietro La Corte regia, Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento alle 14 da Alessio Maurizi. Buona giornata, ciao.